15. Ascolta e controlla. Anna è tornata dalle vacanze e parla con l'amica Nicoletta del suo viaggio. Anna è andata con Michele in vacanza e hanno preso a noleggio una macchina per tutta la settimana. Insieme hanno visitato la cantina più antica della zona e hanno passeggiato nel vigneto. Poi hanno mangiato nel ristorantino della cantina. Hanno visto anche una mostra di scultura e a un certo punto lo scultore ha immerso le sue opere in una grande vasca piena di vino bianco. Anna e Michele hanno usato la videocamera per filmare alcuni mercati all'aperto. Nicoletta ha imparato a preparare un piatto thailandese e invita Anna e Michele a cena. Sabato sera alle 8 vanno da Nicoletta per cenare e anche per guardare i video di Anna e Michele.